Capitolo 149. Le donne di Lemno e il re Cizico. Eracle, dopo la cattura del cinghiale Erimanzio, fece improvvisamente il suo ingresso a Pagase e fu invitato all'unanimità ad assumere il comando dell'Argo, ma nobilmente egli declinò l'incarico, preferendo obbedire agli ordini di Giasone che, benché novizio, aveva preparato e organizzato la spedizione. Non appena la nave fu varata e i vogatori sistemati ai loro posti, due su ogni panca, toccò a Giasone di sacrificare una coppia di buoi ad Apollo delle imbarcazioni. Mentre il fumo di codesto sacrificio saliva propizio al cielo in lunghe e volute nerastre, gli argonauti sedettero al banchetto d'addio e Orfeo, col suono della sua lira, placò le zuffe degli ubriachi. Salpati poi alle prime luci dell'alba, si diressero verso Lemno. Circa un anno prima gli uomini di Lemno avevano litigato con le loro mogli, lagnandosi perché puzzavano, e si erano scelti come concubine delle fanciulle trace catturate nel corso di scorrerie. Per vendicarsi le donne di Lemno li assassinarono tutti senza pietà, giovani e vecchi, a eccezione di re Toante che la figlia Ipsipile salvò in segreto, spingendolo in mare su una barca senza remi. Ora, quando Largo apparve al largo dell'isola, le donne di Lemno la credettero una nave nemica salpata dalla Tracia e, indossate le armi dei loro mariti defunti, si precipitarono sulla spiaggia per respingere il temuto attacco. Tuttavia l'eloquente Echione, sbarcato col bastone in mano come araldo di Giasone, tosto placò i loro animi e Ipsipile, convocato il consiglio, propose di offrire cibo e vino agli argonauti, senza tuttavia ammetterli nella città di Mirina, per paura che fosse scoperto il massacro degli uomini di Lemno. Polisso, la vecchia nutrice di Ipsipile, si alzò allora e disse che, senza uomini, la razza dei Lemni si sarebbe presto estinta. «Più saggia cosa sarebbe, propose, che ci offrissimo all'amore di questi ben nati avventurieri. Così facendo, non soltanto porremo la nostra isola sotto sicura protezione, ma daremo vita a una nuova e solida stirpe». Questo consiglio disinteressato fu acclamato a gran voce e gli argonauti entrarono a Mirina. Ipsipile, come naturale, non disse tutta la verità a Giasone, ma gli spiegò che dopo aver subito maltrattamenti da parte dei loro mariti, le donne di Lemno si erano levate in armi costringendoli a emigrare. Il vacante trono di Lemno, aggiunse, poteva essere di Giasone, bastava che egli lo chiedesse. Pur accettando con gratitudine tale offerta, Giasone rispose che prima di stabilirsi nella fertile Lemno, egli doveva conquistare il vello d'oro. Ma Ipsipile riuscì facilmente a indurre gli argonauti a ritardare la partenza, poiché ognuno di loro era circondato da belle giovani donne smaniose di giacersi con lui. Ipsipile volle Giasone tutto per sé e lo intrattenne regalmente nel palazzo. Fu così che concepì Euneo e il suo gemello Nebrofono, che altri chiamano Deifilo o Toante il Giovane. Euneo divenne in seguito re di Lemno e fornì ai greci il vino durante la guerra di Troia. Molti bambini furono generati in tale occasione dagli altri argonauti, e se non fosse stato per Eracle, che era rimasto di guardia sul largo e che alla fine, spazientitosi, si aggirò per le vie di Mirina bussando con la clava alle porte e richiamando al dovere i suoi compagni, forse il vello d'oro non avrebbe mai lasciato la Colchide. Eracle dunque costrinse gli argonauti a scendere al porto e quella sera stessa fecero vela per Samotracia, dove furono iniziati ai misteri di Persefone dai sacerdoti della dea, i Cabiri, che salvano i marinai dai naufragi. In seguito, quando le donne di Lemno scoprirono che Ipsipile, nonostante il solenne giuramento, aveva salvato la vita di Toante, costui infatti approdò all'isola di Sicino e regnò sulla Tauride, la vendettero come schiava a Licurgo, re di Nemea. Ma altri dicono che i pirati traci fecero un'incursione a Mirina e catturarono la principessa. Raggiunta l'età virile, Euneo purificò l'isola dal sangue della colpa e i riti che egli compì si ripetono ancora durante la festa annuale dei Cabiri. Per la durata di 9 giorni tutti i focolari di Lemno vengono spenti e si fanno offerte ai morti, dopodiché un nuovo fuoco giunge per nave dall'altare di Apollo a Delo. Gli argonauti proseguirono il loro viaggio lasciando Imbro a tribordo E poiché ben si sapeva che re Laomedonte di Troia controllava l'ingresso all'Ellesponto e non permetteva alle navi greche di accedervi, scivolarono nello stretto nottetempo, costeggiando la Tracia, e raggiunsero il Mar di Marmara, sani e salvi. Avvicinandosi al territorio dei Dolioni, sbarcarono all'imboccatura di un'accidentata penisola chiamata Arto, che è dominata dal monte Dindimo. Colà furono bene accolti da re Cisico, figlio di Eneo, un antico alleato di Eracle, che aveva appena sposato Clita di Percote in Frigia e che cordialmente li invitò a partecipare al banchetto nuziale. Mentre la veglia era ancora in corso, gli uomini di guardia al largo furono attaccati con pietre e clave da certi giganti a sei braccia, figli della terra, venuti dall'interno della penisola, ma li respinsero. In seguito gli argonauti dedicarono la loro ancora ad Atena, e ancora la si vede nel tempio della dea. Prese a bordo un'ancora più pesante, partirono vogando tra cordiali addii diretti verso il Bosforo. All'improvviso il vento di nord-est si abbatté sibilando su di loro e ben presto si accorsero di procedere così a fatica che Tifide decise di tornare alla penisola. Ma la nave fu spinta fuori rotta e gli argonauti, approdando a caso su una spiaggia nell'oscurità profonda, furono assaliti da guerrieri ben armati. Soltanto quando li ebbero respinti dopo aspra battaglia, uccidendone alcuni e mettendo gli altri in fuga, Giasone si rese conto che quella era la spiaggia orientale di Arto e che il nobile re Cisico, il quale aveva scambiato gli argonauti per pirati, giaceva morto ai suoi piedi. Clita, impazzita a quella triste notizia, si impiccò. Le ninfe del bosco sacro piansero amaramente la sua morte e le loro lacrime formarono la fontana che ora porta il suo nome. Gli argonauti celebrarono le esequie di Cisico con giochi funebri e il maltempo li costrinse a rimanere ad Arto per qualche giorno ancora. Infine, un alcione svolazzò sulla testa di Giasone e si posò poi sulla prua del largo, a che Mopso, che sapeva interpretare il linguaggio degli uccelli, spiegò che tutto sarebbe andato per il meglio se gli argonauti avessero placato la dea Rea. La dea aveva voluto la morte di Cisico per vendicare il leone sacro ucciso da Cisico sul monte Dindimo, e ora era irritata contro gli argonauti per il massacro dei suoi fratelli dalle sei braccia, figli della terra. Gli argonauti dunque innalzarono un simulacro alla dea, scolpito da Argo in un antico ceppo di vigna, e danzarono, in assetto di guerra, sulla vetta della montagna. Rea li ricompensò per questo atto di omaggio. Fece sgorgare una sorgente ora chiamata sorgente di Giasone dalle rocce vicine. Una lieve brezza si alzò e gli argonauti poterono riprendere il mare. I Dolioni tuttavia prolungarono il loro lutto per un mese intero e non accesero i fuochi, nutrendosi di cibi crudi. Tale usanza è ancora osservata durante gli annuali giochi cizzici. La leggenda vuole che Giasone approdi all'isola di Lemno perché, secondo Omero, Euneo, che regnò sull'isola durante la guerra di Troia, era suo figlio, e perché Eufemo, un altro argonauta, ebbe un figlio, Leucofane, dal bianco aspetto, da una donna di Lemno e divenne così l'antenato di una duratura dinastia cirenea. Il massacro degli uomini di Lemno ci fa supporre che nell'isola si rispettasse una organizzazione ginecratica della società, retta da sacerdotesse armate, organizzazione che esisteva anche in alcune tribù libiche ai tempi di Erodoto, e che i visitatori elleni tentassero di spiegare una simile anomalia ricorrendo all'ipotesi di una rivoluzione femminile. Mirina era il nome della loro dea. Si dice che le donne di Lemno puzzavano, forse perché lavoravano il guado, usato dai loro vicini traci per i tatuaggi. Il guado ha un puzzo così nauseabondo e persistente che anche gli abitanti del Norfolk, dediti alla sua lavorazione, sono sempre stati costretti a sposarsi tra loro. Samotracia era il centro della religione elladica, e gli iniziati ai misteri della sua dea Luna, misteri il cui segreto fu sempre ben conservato, avevano il diritto di portare un amuleto di porpora che si diceva potesse proteggerli da pericoli di ogni sorta, ma specialmente dai naufragi. Filippo di Macedonia e sua moglie Olimpiade furono iniziati a tali misteri. Cesare Germanico invece non poté prendervi parte per via di un cattivo presagio e morì poco dopo. Certi antichi recipienti di bronzo di Samotracia si dice fossero stati offerti dagli argonauti. La leggenda dei fratelli di Rea, i giganti dalle sei braccia dell'isola dell'orso, Arto, è stata forse tratta dalla raffigurazione di uomini barbuti, i quali indossano pelli d'orso con le zampe bene in mostra. Il resoconto della morte di Cisico è abbastanza circostanziato per lasciare supporre la realtà storica di una scorreria nel Mar Nero, benché abbia ben poco a che fare con l'estinzione dei fuochi a Cisico, così come il supposto massacro dei Lemni ha ben poco a che fare con la cerimonia analoga di Mirina durante la festa dei Cabiri. Al termine dell'anno, quando il re sacro veniva sacrificato, in molti regni si spegnevano i fuochi, che si riaccendevano in seguito durante i riti dell'incoronazione del nuovo re. L'uccisione del leone di Rea si riferisce probabilmente al fatto che a Cisico il suo culto fu soppresso in favore degli dei Olimpi. Gli Alcioni erano i messaggeri della dea del mare Alcione, la regina che allontana le tempeste.